dopo l'intervento in Taci, che era l'ultimo scritto ufficiale. Naturalmente ci sarebbe da approfondire molto anche altri aspetti, e abbiamo avuto per esempio da Babele Dan Aaron Brancotti, che chiedeva se si potevano confrontare sistemi esperti, reti neuronali, eccetera. E io suggerirei stasera di non entrare in una discussione troppo tecnica, se non vi dispiace. E abbiamo ancora una mezz'oretta nel calendario ufficiale della serata, anche se magari alcuni di voi vorranno proseguire anche dopo mezzanotte. E vorrei chiedere al nostro pubblico, a quelli che non sono venuti, anche agli altri incontri, e quelli che hanno risposto all'inizio della discussione che non sapevano in che cosa consistesse l'argomento della singolarità tecnologica, avevano risposto alla mia domanda no. Vorrei che rispondessero alla fine di questo momento espositivo, e se hanno capito di più che rispondano sì, se non hanno capito di più che rispondano no, con serenità naturalmente. Ok, mentre vediamo man mano che arrivano le risposte, vorrei chiedere, scrivendo oppure parlando, se ha delle domande magari da fare a quelli che hanno parlato, o in generale, o se hanno qualche osservazione da fare. Esatto. Vito chiede quando si potranno fare domande. Questo è il momento perfetto per fare domande, scritte o parlate, come preferite. Vito, vuoi fare tu una domanda? Vito chiede, ricollegandosi all'intervento di Malachi, se il metaverso non fosse il contenitore ma parte della singolarità stessa. Puoi chiarire tutto? Intendi parte della singolarità nel senso strumento della singolarità oppure manifestazione della singolarità? Sì, come scrive Malachi, come molti di voi avranno visto anche sul bellissimo video The Machine is Us, noi già oggi, come anche è stato citato precedentemente Ray Kurzweil, stiamo collaborando con le macchine, stiamo confluendo verso le macchine che quotidianamente ci esprimono per nutrire Google e per renderlo sempre più efficiente. E Vito osserva che in questo caso il metaverso non è neutrale. Io penso che anche da un punto di vista c'è il feedback verso il microfono da parte di qualcuno, che c'è una paura sia il tuo. E da un punto di vista filosofico, da quando esiste la meccanica quantistica, non abbiamo più sistemi che sono una piattaforma neutrale rispetto ai fenomeni che mettono in moto. Ci sono cicli di feedback che possono essere anche molto brevi e che cambiano i parametri della piattaforma a seconda dei fenomeni che si realizzano. Quindi in questo senso, secondo me, è corretto che il metaverso non sia neutrale.